intercettati, intercettati, siamo intercettati, intercettati. Tutta la squadra con me, quando lo dici stai attento, di solito al cielo qua parliamo in tre. Vogliono sapere se la porti con te. Sono nascosti nel ciel, fra le cimici nelle scale. No, no, no, no, no. Foto con le nostre facce, merde sulle nostre tracce. Registrano prezzi e minacce per davvero. Occhio a chi parli qua, i muri ci sentono bene, ci vedono bene. Grande fratello senza stare in tele, grande fratello ci possiamo vedere. E io lo so, vuoi propormi un affare, parli di lei senza mai darle un nome. Basta che non ci facciamo beccare. Sgami, intercettati, intercettati, siamo intercettati. Sgami, intercettati, siamo intercettati. Siamo intercettati. Con le faccine ti parlo di skunk, tutt'ario contra se parlo coi fra. 16.000 alzo in pezzi da 20, fai finta di niente appoggiato al bancone del bar. Non dire mai dove sei, rispondi che stai arrivando. Se mi naspi sul tracciato fai in fretta che questi ti stanno tracciando. Lo stanno allacciando, Dio pensaci tu. Svuotano tutto prima che arrivino giù. Scheda anonima in Paolo Sarpi, così non possono ascoltarci. E qua non so chi può salvarci. Ficca e naso stanno addosso come tatuaggi. Vogliono fermarci, sono pronti a farci. Nega tutto, taci. Sgami, intercettati, intercettati, siamo intercettati. Sgami.